Benvenuti alla seconda lezione del corso Mishnah. Continuiamo l'introduzione alla Mishnah. Abbiamo visto nella scorsa lezione il modo in cui è stata trasmessa la Torah. Abbiamo visto che la Torah è stata sempre trasmessa su un doppio binario. Un binario è quello della Torah scritta, e cioè Moshe Rabbeinu trasmette un testo, e il secondo binario viene invece non trasmesso, nel senso che viene, diciamo che c'è quasi un passaggio di un bene da un posto all'altro, da una generazione all'altra, ma viene insegnato, viene spiegato il senso e vengono trasmesse quindi delle idee, delle spiegazioni, delle interpretazioni, il significato di ciò che è scritto su quel testo. Questi due binari compongono la Torah scritta, la Torah Shebe'al Peh e la Torah Shebichtav, e la Torah orale, la Torah Shebe'al Peh. Così è stato trasmesso per tante generazioni, finché si è arrivati al momento storico degli Anshei Knesset HaGedolah, gli uomini della grande assemblea, che sono quelli che hanno veramente dato una uniformità a diversi elementi nell'osservanza dell'ebraismo, come nel formulare le tefilot in maniera precisa, le berachot e così via, e mettendo in atto molte regole, molte norme che si basano sulle idee che abbiamo spiegato nella scorsa lezione sulla Torah. La storia va avanti e giungiamo all'epoca in cui si è formata proprio la Mishnah. Parliamo un attimino del maestro, del grande maestro, il grande tzaddik, che fu a capo di questa grande opera, che era Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, che si chiamava in varie maniere, lo chiamavano o Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi Yehuda il principe, il capo del Nasi è il titolo del capo del Sanedrin. Veniva chiamato anche Rabbeinu HaKadosh, nostro maestro Kadosh, sacro. Questo perché? Perché il suo comportamento era estremamente di livello molto elevato a livello morale. Il suo distacco dai piaceri mondani era quasi totale. E quindi questo termine Kadosh si riferisce a questo. Viene anche chiamato semplicemente Rabbi per eccellenza. Rabbi per eccellenza nella Mishnah e nelle fonti è un riferimento a Rabbi Yehuda Hanassi. Allora diciamo che dal tempo di Shimon HaTzadik, che come abbiamo detto era l'ultimo membro dell'Anshei Knesset HaGedolah, di quella grande assemblea, fino al tempo di Rabbi passano circa quasi 5 secoli, e tutto quel periodo viene in maniera molto generale, adesso senza entrare in tutti i dettagli, viene chiamato il periodo dei Tanaim. Tanaim, i maestri che vengono poi citati nella Mishnah. E durante questo tempo succedono moltissime cose nel corso della storia. È il momento in cui passa la terra di Eretz Israel, passa da dominio babilonese a dominio greco, con l'arrivo di Alessandro Magno. Poi viene anche conquistato successivamente il Beit HaMikdash e Gerusalemme da parte di un imperatore, diciamo greco, filo greco, che è Antioco, e poi la famosa rivolta dei Maccabei, dei Hashmonaim, contro quell'imperatore, e quindi una indipendenza ebraica in Giudea, nella terra di Yehuda, nella zona di Yehuda, con Gerusalemme capitale, che dura quasi 2 secoli, però poi gradualmente entriamo sotto prima in un'alleanza e poi sotto un dominio romano. Anni difficili, momenti di difficoltà, quindi battaglie, rivolte che portano poi alla distruzione del secondo Beit HaMikdash con Tito, prima Vespasiano, e una nuova rivolta anche successivamente molto importante con Bar Kokhba, e un nuovo grandissimo massacro, persecuzione con Adriano che schiaccia quella rivolta e in maniera molto molto terribile. E dopo di questo un periodo di relativa calma. Questo periodo di relativa calma venne fuori la figura di Rabbi Yehuda Hanassi, di cui parlavamo. Il Rambam, stiamo seguendo l'introduzione del Rambam alla Mishnah, il Rambam scrive che Rabbeinu HaKadosh, questa figura, era una persona che era unica nella sua generazione e nel suo periodo storico, che racchiudeva in sé tutte le qualità che un grande leader può avere. Cioè era sia una guida a livello di Torah, a livello di studio, di insegnamento, e questo chiaramente, come dicevo prima, non solamente a livello accademico, ma anche come esempio di una persona di altissimo livello morale, di grande spiritualità, di grande livello spirituale, e al tempo stesso anche una grande guida del popolo a livello politico. Aveva ottimi rapporti con i capi dei Romani, anche con un re romano, Antonino. Era una persona totalmente umile, era una persona molto lontana, appunto, come dicevo, dai piaceri mondani. E i maestri dicono che nel momento in cui morì Rabbi, è come se fosse morto con lui tutto il concetto dell'umiltà e tutto il concetto del timore del peccato. Anava ve'yirat chet. Tra le sue molte qualità c'era anche la qualità di essere un grande esperto di lingua, di Lashon HaKodesh, della lingua sacra, fino al punto che i maestri a volte si spiegavano, si davano la spiegazione di parole difficili sentendo le conversazioni semplici, mondane, delle persone che lavoravano nella casa di Rabbi Yehuda Hanassi. Fino a questo punto era nel suo contesto conosciuta la lingua, molto approfonditamente. Era anche una persona molto benestante. Lui, con tutto questo, con tutte queste capacità che aveva, si dedicò totalmente alla trasmissione della Messorah, e cioè a portare verso le prossime generazioni ciò che è stato trasmesso fino a quella generazione nella Torah, e quindi nella Torah scritta e la Torah orale. Soprattutto è chiaro che la trasmissione si occupa della Torah orale. La Torah scritta è lì, è scritta sul Sefer. Il problema maggiore sta nel trasmettere il significato, nel trasmettere le sfumature, nel trasmettere tutto ciò che include la Messorah e quindi la tradizione che è trasmessa oralmente. Questa è la sfida più grande, ed è sempre la sfida più grande. Anche oggi, in realtà, la sfida più grande non sta nel trasmettere ciò che è scritto. Anche oggi che abbiamo tecnicamente già scritto la Torah orale, ma la difficoltà di ogni generazione sta nel trasmettere lo spirito della legge, il vero senso, che spesso sono cose che molto difficilmente si possono trasmettere per iscritto, vanno trasmessi appunto sempre con un legame umano. E in questo senso, e questo lo dico tra parentesi, in questo senso possiamo dire forse che la Torah orale non è mai realmente stata messa per intero per iscritto, perché c'è sempre questo elemento qui. Tornando a Rabbi, chiudendo la parentesi, Rabbi si assunse la responsabilità non solamente di trasmettere la Messorah, la tradizione orale, alla prossima generazione, come fecero le generazioni precedenti, antecedenti a lui, bensì si assunse la responsabilità di trasmettere la Torah orale per tutte le generazioni. Cioè si rese conto, come vedremo citando il Rambam, di una situazione particolarmente pericolosa in questo riguardo, cioè la eventuale possibile perdita di questa trasmissione, e quindi la decisione di intraprendere un percorso che porterebbe ad un progetto importante di di conservare la tradizione in una maniera che potesse essere trasmessa anche nelle generazioni con questo strumento che lui crea, tra virgolette. Cos'è questo strumento? Rabbi Yehuda Hanassi prese e raccolse tutte le trasmissioni che furono trasmesse da un maestro a un allievo in tutte le generazioni, raccolse tutto, tutta la tradizione orale, e prese tutto in considerazione per formare un'opera che è la Mishnah. Ora, il Rambam scrive così, e qui arriveremo a capire meglio la storia della Mishnah, la struttura e come funziona e qual è lo scopo della Mishnah. Il Rambam scrive, dai giorni di Moshe Rabbeinu, quindi dai tempi di Mosè, fino all'epoca di Rabbeinu HaKadosh, lo chibru chibur shem lamdinoto barabim batorah shebealpe. Non fu mai creata un'opera che venga usata per insegnare in pubblico la Torah orale. Ora, queste parole per insegnare in pubblico sono molto molto importanti. Perché? Il Rambam spiega che in ogni generazione, quando il Bedin, chi erano responsabili in quella generazione per trasmettere la Torah orale, appunto insegnavano, in ogni generazione chi riceveva l'insegnamento segnava in un quaderno personale i punti, come prendendo delle note quando si sente un discorso o una lezione, perché possa poi tornare a leggere, ad approfondire su quelle note e ricordarsi meglio e quindi ripassare, ripetere e ritenere nella memoria quegli insegnamenti. Quindi questi quaderni esistevano solamente come un appoggio personale per ripetere e ricordare per sé, per poi insegnare. Ma l'insegnamento viene fatto, la trasmissione viene fatta in maniera orale, non leggendo un testo e trasmettendolo, spiegandolo. Quindi per questo il Rambam ha detto Barabim in pubblico, non c'era nessun testo sul quale ci si appoggiava per insegnare pubblicamente. Ognuno poteva avere il proprio quaderno personale dove metteva le proprie note. Per usare per cosa? Per studiare a memoria, per poi ritenere a memoria gli insegnamenti. Molti di questi quaderni, in qualche maniera, anche se in realtà non dovevano essere divulgati, perché la Torah orale doveva rimanere orale, ma si trovavano alcuni di questi quaderni, o molti di questi quaderni, e addirittura si chiamavano Megillot Setarim, delle opere, dei quaderni nascosti, perché ognuno se lo teneva a sé e per sé. E quindi Rabbi cercò di raccogliere anche tutti i più possibili quaderni di questo tipo, così come anche tutte le tradizioni orali che poteva raccogliere. E quindi raccolse tutto ciò, raccolse tutte le conclusioni nuove che nel tempo sono nate, frutti dei metodi che la Torah dà, i 13 strumenti, se vogliamo, di cui parlavamo la scorsa volta, per estrapolare il significato dai psukim della Torah, dai versetti della Torah. E queste fonti tutte diventano la base della Mishnah. Ora, è anche interessante notare che la Mishnah quindi non è un'opera che viene scritta in quel momento, in realtà viene redatta da una vastissima fonte, cioè moltissime fonti che vengono poi redatti per creare la Mishnah. La Mishnah stessa parla in un linguaggio molto conciso, molto breve, però riporta qualche cosa che si basa su molti strati nel tempo di trasmissione. Anche nello studio della Mishnah stessa, coloro che approfondiscono lo studio della Mishnah sanno individuare magari anche una frase all'interno di una Mishnah che può essere in realtà come quasi un lavoro archeologico sulla Mishnah, si può dire in certo senso, e una frase che può essere di una fonte di una Mishnah più antica rispetto ad una frase che invece è stata è stata formulata ai tempi di Rabbi Yehuda Hanasi. Queste sono cose che noi possiamo vedere nelle Mishnayot e che possiamo vedere anche in un trattato rispetto ad un altro piuttosto che un'altra fonte e così via. Quindi ci sono molti molti strati che portano al formulare della Mishnah così come la vediamo oggi. E così appunto si comportavano fino ai tempi di Rabbi, facendo quelle note personali, ripetendole a memoria, eccetera, e tutto veniva trasmesso, come dicevo, oralmente. Nel momento in cui Rabbi Yehuda Hanasi ha fatto questa rivoluzione e ha raccolto tutto, e insieme al suo corpo Beit Din, insieme alla sua corte, fece tutto il lavoro di redazione e fu formata l'opera della Mishnah, allora a quel punto Rabbi Yehuda Hanasi non si mise a riposare, ma si mise a lavorare, cioè usò la Mishnah come strumento per trasmettere la Torah orale, per trasmettere la Messorah, e la fece arrivare a tutte le località in cui c'erano ebrei, in cui si insegnava la Torah, perché non si dimentichi la Torah orale da Israele, dal popolo ebraico. Allora, cosa è Mishnah? La parola Mishnah, qual è il significato innanzitutto della parola Mishnah? La parola Mishnah viene dalla parola, il verbo leshannen. Leshannen vuol dire, può voler dire insegnare, come leggiamo nello Shema tutti i giorni, veshinnantam levanecha, insegnate queste parole ai vostri figli. Ma in che senso insegnare? Allora la parola shinun può avere due significati, tra i vari significati che può avere, è quelli di ripetizione e quello di, come dire, usiamo, prendiamo in prestito la parola affilare, che vuol dire affilare, rendere affine, cioè che sia una cosa precisa. Quindi il shinun è qualcosa di molto molto preciso, di molto esatto, e che viene ripetuto. Perché? Perché la Mishnah è scritta in una maniera, appunto come dicevo, molto molto breve, ma delle parole che nella loro brevità, nonostante la loro brevità, riescono ad essere molto molto precise, e in questa precisione a racchiudere in sé molti significati e molti aspetti che non sono immediatamente evidenti. E questo per due motivi che noi possiamo dire nel leggere la Mishnah. Il primo motivo è perché la Mishnah doveva essere ricordata a memoria, leshannen, andava ripetuta e in maniera precisa finché sia conosciuta a memoria. Quindi la Mishnah è in origine uno strumento per conoscere a memoria gli elementi base e importanti della Torah orale. E quindi non possono essere troppo lunghi. Ogni Mishnah ha la sua brevità e ogni frase della Mishnah è espressa in una maniera il più breve possibile, la più breve possibile. Inoltre, perché questa, perché trasmetterlo in maniera così breve e così concisa? Perché racchiudere in una frase molti significati che non sono immediatamente evidenti, ma che approfondendo possono diventare sì evidenti, perché in questo non si perde la trasmissione orale, cioè l'idea che leggendo la Mishnah ancora non la sai tutta, ancora ti mancano molti elementi, la struttura della Mishnah, le regole che la Mishnah impone su di sé e quindi il modo in cui trasmette gli insegnamenti, tutto ciò va trasmesso dal maestro all'allievo e di conseguenza serve quel legame personale di cui parlavamo prima, intergenerazionale. E allora è come se avessero scritto, almeno una parte, avessero scritto la Torah orale, ma in una maniera che comunque serve il legame, tra virgolette, orale, serve il legame umano. Quindi non voleva totalmente con questo prendere il posto della trasmissione della Torah orale. Perché? Perché fece Rabbeinu HaKadosh questa cosa? Perché prese questa decisione così importante e così drastica? Perché vide, dice Rambam, She talmidim mitmatin veolchin, gli allievi diventano sempre di meno, mentre veatzarot mitchaddeshot uvaot, i problemi diventano sempre di più, Chiaramente queste due cose sono legate. Malchut Romi fa riferimento all'impero romano che andava sempre espandendosi nel mondo e rafforzandosi, cosa che portò Israel mit Galgelin volchin laksavot, che il popolo ebraico va spargendosi nelle varie nei vari punti lontani, estremi di tutto l'impero e di tutto il mondo in generale, e quindi creò un'unica opera che potesse essere in mano a tutti, che potesse essere imparata in relativamente breve tempo e non dimenticata. E lui si mise poi, dopo aver fatto questo, con il suo Beit Din, tutta la sua vita, tutto fino alla fine della sua vita, si dedicò all'insegnamento della Mishnah in pubblico. Ok, e quindi è stata creata la Mishnah. Ora, un problema è la seguente cosa. Abbiamo forse visto la scorsa volta, la Torah scritta deve per forza essere scritta e la Torah orale deve per forza essere orale, secondo la volontà di HaKadosh Baruch Hu, così come espressa nella Torah e così come sempre trasmesso nella tradizione. Allora chi dà il permesso ad una persona, anche se è una persona come Rabbi Yehuda HaNasi ed anche se tutto il Sinedrio in realtà all'epoca che prende questa decisione, chi dà loro il permesso di fare un gesto, un passo di questo tipo così importante, così rivoluzionario nell'ebraismo? Tra l'altro, come dicevo, contro una mitzvah. E i maestri dicono, c'è un versetto nei Salmi che esprime questo concetto, nel Salmo 119 è scritto Et la sot la Hashem, quando c'è da fare qualcosa, è un momento particolare in cui c'è da fare qualcosa di importante per Hashem, cioè in altre parole, a volte si richiedono delle misure forti per mantenere ciò che è voluto da Kadosh Baruch Hu, allora il versetto conclude dicendo Heferu Toratecha, potrebbero, come i maestri spiegano, potrebbero anche andare contro, a trasgredire addirittura la Torah stessa, per cosa? Per mantenerla. In altre parole, questo è un fortissimo dilemma che si è presentato a Rabbeinu HaKadosh e al suo Beit Din, al suo Sanhedrin, che si è chiesto, noi vogliamo mantenere la Torah, ma per farlo dobbiamo trasgredire la Torah. È una cosa molto difficile. E loro sono arrivati alla conclusione che in quel momento andava fatto. Andava fatta la cosa che teoricamente è contro la Torah per garantire la esistenza stessa della Torah nelle prossime generazioni. E quindi ripeto, la Torah orale è stata messa per iscritto, ma in quel momento non tutta, e in una maniera che serve comunque quella trasmissione orale come sempre servita. Cioè non prende il posto totalmente, non è una totale trasgressione se vogliamo metterla così. Tra l'altro, un altro punto interessante è di pensare un attimino prima di andare, adesso vedremo cosa include la Mishnah, vediamo cosa esclude la Mishnah. E vedendo cosa esclude la Mishnah ci fa capire quanto quello che abbiamo detto finora è valido. In che senso? Nella Mishnah non viene descritta la regola, per esempio, di come, quando, in che maniera vanno messi i tefillin. Per citare un esempio di molti esempi di cose escluse dalla Mishnah. E se uno va a leggere la Mishnah e dice questa è la Torah orale, queste sono le regole, sulla Torah non è scritto nulla, sulla Torah sono scritte delle parole estremamente criptiche per ciò che riguarda i tefillin, ognuno può leggerle nello Shema, Ukshartam le otagliadecha, ve ayule totafot benenecha, non è chiaro cosa si lega, in che maniera si lega, non è chiaro nulla dalle parole della Torah. Tutto ciò che noi abbiamo come tefillin, perché dai tempi di Moshe Rabbeinu si è trasmesso oralmente cosa bisogna fare. Pelle di un animale kasher, trattato in un certo modo, creato la pergamena, scritti questi brani, eccetera, eccetera, legati in questa maniera ai punti esatti dove vanno messi. Tutto ciò è Torah orale. Nulla di questo è scritto sulla Torah. E allora perché non è scritto sulla Mishnah? La risposta è semplice. I tefilin si mettono quasi tutti i giorni. L'ebreo ha l'obbligo di mettere i tefilin ogni giorno, a parte lo Shabbat e i Moadim. Allora il come preparare i tefilin, il come metterli, quando metterli, eccetera, sono cose che, visto che fanno parte della pratica quotidiana dell'ebreo, non erano in quel momento a rischio di essere perse, quelle cose, quegli insegnamenti. Di conseguenza non andavano messe nella Mishnah, perché non serviva a trasgredire, per così dire, per questo elemento qui del comportamento ebraico. Altre cose che più difficilmente si possono ricordare in quella maniera, quelle dovevano essere appunto conservate nella Mishnah. Allora, questo è dal fatto di vedere cosa la Mishnah esclude, possiamo capire il senso della Mishnah. Una delle cose. Andiamo avanti, allora, cosa è invece incluso nella Mishnah? Allora, il Rambam ci aiuta in questo, in quanto divide in cinque categorie ciò che viene incluso nella Mishnah. Vediamo. Prima categoria, dice il Rambam, Hapirushim Hamekubalim mi Moshe, sulle quali Enbo Machloket Klale, cioè tutte le interpretazioni, i significati delle mitzvot della Torah che sono stati trasmessi dai tempi di Moshe Rabbeinu e che hanno degli appoggi testuali anche, quindi non espliciti sulla Torah, perché allora non sono più orali, ma delle mitzvot che sono scritte sulla Torah e che hanno anche degli appoggi testuali per ciò che è la tradizione orale dai tempi di Moshe, sui quali non c'è discussione, queste regole fanno la prima categoria di regole che ci sono nella Mishnah. Seconda categoria si chiama Halakha le Moshe Misinai. Significa, anche qui, regole sulle quali non c'è discussione, sui quali tutti sono d'accordo, nel corso della trasmissione delle generazioni sono rimasti tutti d'accordo su queste regole. Queste regole sono appunto, ora farò un esempio, sono Halakha le Moshe Misinai, significa un insegnamento trasmesso da Moshe dal Sinai, cioè con fonte dal Sinai, ma che non hanno appoggio testuale nelle parole della Torah. Esempio è lo stesso esempio che ho fatto prima, i dettagli dei tefilin. Il fatto che il laccio del tefilin, l'esterno del laccio deve essere di colore tinto, di colore nero, uno dice è così, una convenzione, una comodità, no. È una halakha, se non fosse nero non sarebbe kasher. E da dove viene questa halakha? Halakha le Moshe Misinai. È una halakha indiscussa nelle generazioni, trasmessa da Moshe dal Sinai. Ok? Questa è la seconda categoria. Altre regole di questo tipo. La terza categoria. Scusate, faccio un esempio anche della prima categoria. Qual è la prima categoria? Cioè le cose che hanno degli appoggi testuali, ma non sono espliciti. Sono stati trasmessi oralmente i significati esatti, precisi. Un esempio per questa cosa può essere, per esempio, quando noi facciamo la mitzvah Sukkot, di prendere l'etrog con le altre tre specie, tutte le quattro specie, facciamo la mitzvah dell'ulav e l'etrog. Ora, sulla Torah andate a trovare la parola etrog, e cioè il cedro, che noi usiamo a Sukkot. Dove è scritta la parola etrog? Ok, non andate a cercare troppo, perché non è scritta sulla Torah. E cosa è scritto allora? È scritto quattro specie, una delle quali è Pri Etz Adar, un frutto di un albero di agrumi o un albero bello. Ci sono tante spiegazioni cosa vuol dire Pri Etz Adar, ma come facciamo a sapere che è esattamente quel frutto lì? Torah orale. La Torah, la prima categoria è la spiegazione dei versetti della Torah secondo la tradizione orale su punti per i quali non c'è stata discussione. Tutti i maestri di Israele erano sempre stati d'accordo che Peri e Zadar, quelle tre parole lì, sono un riferimento al cedro, all'etrog. Perché erano così sicuri? Perché questa trasmissione è stata sempre trasmessa dai tempi di Mosè, si appoggia a quelle tre parole sulla Torah Peri e Zadar. cioè abbiamo la parte scritta, che come quasi sempre è criptica, non è autosufficiente della sua, nel suo significato, nel dare la sua spiegazione, si appoggia al Torah Shebaal Peh, alla tradizione orale. Terza categoria di regole che abbiamo nella Mishnah sono le regole che vengono estrapolate usando i 13 metodi, i 13 strumenti con le quali la Torah ci insegna. Noi possiamo arrivare ad ulteriori conclusioni di Halakha dal insegnamento dei versetti tramite questi 13 metodi. Su questo potrebbe esserci una discussione, cioè un maestro potrebbe dire: da questa regola, da questo metodo, da questa logica halachica si potrebbe arrivare alla seguente conclusione, e un altro maestro potrebbe dire: beh, in realtà si potrebbe vedere la cosa da un'altra prospettiva, sempre halachica, ed arrivare ad una conclusione contraria. Cosa si fa in questo caso? In questo caso bisogna, la Torah dice, seguire la maggioranza di opinioni tra i Chachamim. Nel Sinedrio sono 71 Chachamim, il Sinedrio superiore, il Bet Din Gadol, e supremo, e il numero è non è un numero paro appositamente, perché ci possa essere una maggioranza anche in queste decisioni, non solamente nelle sentenze da emanare per delle cause, ma sulla decisione dell'Halakha, così come dovrà essere rispettata da Am Israel per la Torah. La Torah dà questa facoltà e quindi l'autorevolezza di fare questo ai Chachamim. E questa è la terza parte, la terza categoria. La quarta categoria riguarda delle regole che sono state imposte. Per quale motivo? La famosa siepe attorno alla Torah. E cioè, la Torah dice Ushmartem et Mishmarti, la Torah dà in mano ai Chachamim il compito e quindi il ruolo di salvaguardare le parole della Torah. Cosa vuol dire salvaguardare? Cioè, la Torah fa una Mishmeret, Mishmeret significa una cosa dal quale ci si guarda, quindi è un riferimento in realtà ad una mitzvah negativa, cioè una cosa che bisogna evitare. Guardati dal far questo. La Torah dice fai una mishmeret, cioè un ulteriore, diciamo così, strato di protezione attorno a ciò che va protetto. In altre parole, c'è la trasgressione stessa, che la Torah dice non trasgredire, non fare questo atto. E poi c'è la misura che viene viene imposta per non arrivare a o vicino alla trasgressione stessa. E questo si chiama Takanot e Gzerot, si chiama, usano il termine Gzerot, cioè decreti, sono nuovi decreti, cioè cose che sono emanate dai Chachamim, sempre con il consenso della maggioranza del Sanedrin, del Bedin Agadol, perché questa è una delle mitzvot della Torah. Quindi questo può nascere, poteva nascere in un momento successivo, quando diventava più pericoloso magari una determinata situazione astenersi dal, allora andava messo anche un ulteriore recinto prima di arrivare a. Un esempio di questa cosa può essere il discorso di il divieto di mangiare la carne di un volatile, pollame o volatile con il latte. Il divieto della Torah non è questo, il divieto della Torah riguarda la bestia, non il volatile, ma in una certa generazione, tra l'altro non lontano dalla generazione di Rabbi Udanasi, prima, hanno detto che per non arrivare a fare confusione di ogni tipo di carne, anche carne volatile, viene inclusa nel divieto. Però all'epoca non era condivisa da tutti questa cosa. Uno dei grandi maestri, Rabbi Yose HaGalili della Galilea era contrario, nel senso non riteneva necessaria questa cosa, e difatti nella sua località, dove lui era l'autorità alachica, non si seguiva questa regola. Nel tempo tutti i Bateidin e tutti i maestri l'hanno accettata, e quindi tutte le comunità. Ma questo è un esempio di una cosa che potrebbe essere discussa. La quinta categoria, che è un altro lato, un'altra faccia della quarta, quindi sono sempre regole che vengono imposte dai Chachamim, soprattutto per cose che riguardano un giusto comportamento interpersonale tra le persone, una vita civile, rispetto dell'ambiente, delle altre persone e così via, anche su queste cose qui, che in altre parole parliamo di cose che non sono necessariamente da definire religiose, tra virgolette, ok? I Chachamim hanno anche questo compito e questo ruolo, e di conseguenza chi va contro queste regole è come se andasse contro la Torah, cioè contro quell'autorevolezza che la Torah ha dato a questi Chachamim. E questo è, diciamo, c'è stato nel tempo anche singole comunità sotto l'autorità di singoli grandi maestri o grandi Batei Din che hanno creato delle regole, come per esempio circa 1000 anni fa in Europa. Una delle più grandi autorità, Rabbeinu Gershom, fece una regola per la quale vietava la poligamia, ok? E cioè la poligamia nella Torah è permessa, che un uomo possa avere più di una moglie, teoricamente, ci sono delle modalità specifiche, eccetera, adesso non entriamo in quel discorso specifico, però parliamo in generale, la poligamia per la Torah era permessa. Viene un maestro e dice: d'ora in poi chiunque pratica la poligamia va contro l'ebraismo, cioè va contro la nuova regola che è stata emessa, e quindi viene scomunicato dalla comunità. Questo è un esempio. Lo stesso maestro ha fatto non è stato al tempo quell'esempio, quella regola non era stata accettata da tutto il popolo ebraico, dal mondo ashkenazita, sì, europeo, non dal mondo dell'ebraismo orientale sefardita. Un altro esempio, sempre dallo stesso maestro, dallo stesso Beit Din, è una regola che rientra in quello che oggi noi chiamiamo la privacy, e cioè il divieto, che non era un divieto esplicito e chiaro, che invece è stato fatto così, e questa è sì stata accettata da tutti, già dall'epoca o vicino all'epoca, che è il divieto di leggere una corrispondenza indirizzata a qualcun altro. Ci sembra una cosa semplice, ma all'epoca, teoricamente, se qualcuno lo facesse, non sarebbe passibile di nessun, diciamo, non avrebbe fatto una trasgressione. Invece ora, dopo questo decreto, è sì, è vietato. In altre parole, una piccola parentesi, quando noi vorremmo capire se una cosa è permessa o vietata, molto spesso la gente si chiede: ok, questo è vietato perché la Torah lo scrive o perché qualche rabbino l'ha detto? Allora, in realtà questa domanda, questo atteggiamento, questa mentalità non è una mentalità ebraica. La mentalità ebraica è nelle generazioni, nella Messorah, nella tradizione da sempre trasmessa oralmente, è la seguente: è permesso o vietato? Se è permesso, è permesso. Se è vietato, è vietato. Ora, a livello accademico, possiamo cercare di capire il tipo di divieto. Se è un divieto rabbinico, se è un divieto biblico, in quale delle cinque categorie che abbiamo citato rientra, tra le varie cose rabbiniche, eccetera, eccetera. Ma non è una questione di pratica. Questa domanda è una domanda di teoria. Perché? Perché a livello teorico, e può avere dei risvolti pratici anche questo, su come si applica l'alaha, ma se applicarla o meno, in base a se è biblico o rabbinico, chi fa questa considerazione in realtà è al di fuori della tradizione ebraica. Lo so che sono parole molto forti, ma vanno dette, vanno chiarite, perché la tradizione, la Messorah di tutte le generazioni della Torah Shebaal Peh, funziona in questa maniera. E quello che si fa quando si studia Torah. Studia Torah vuol dire quando si trasmette da una generazione all'altra l'insegnamento, il comportamento e tutto quel diciamo bagaglio spirituale e morale che ci è stato dato, che noi siamo tenuti a trasmettere. Si intende questo, si intende soprattutto la parte orale, cioè la parte che difficilmente la si può mettere per iscritto, la parte di comportamento, la parte di approfondimento, la parte di spiegazione che accompagna la parte scritta, che di nuovo tanto è stato messo per iscritto. Ma il punto è che il nostro compito non è di trasmettere ciò che è scritto, è di trasmettere ciò che era sempre detto oralmente. Ciò che è scritto, è già salvaguardato nella scrittura stessa. Il compito dell'ebreo è di trasmettere lo spirito di quello che è scritto, il significato reale secondo la tradizione orale. Ok? Quindi questo è in realtà tutto il concetto di studiare la Torah. E si potrebbe anche allungare su questo, però andiamo avanti. Queste cinque categorie sono quelle che, dalle quali, diciamo così, Rabbi Yehuda HaNassi raccoglie tutto questo e crea l'opera della Mishnah. Ora, che struttura segue questa grande opera della Mishnah? Allora, tutti cantano a Pesach, nella canzone dei numeri, e uno chissà qual è il numero 6? Il numero 6 sono gli ordini della Mishnah. Cosa vuol dire gli ordini della Mishnah? Allora, torniamo al nostro Rambam che spiega questa struttura. E dice il Rambam, quando Rabbi Yehuda HaNassi ha deciso di fare, intraprendere questo percorso, questa lunga strada e grandissima opera, decise di suddividere il progetto in 6 parti. La prima parte riguarda tutte le regole che sono relative alla vita agricola, al mondo agricolo, tutte le mitzvot che sono relative alla terra, la semina, l'anno sabbatico, le regole dei prelievi, cioè dei doni che vanno prelevati dal prodotto agricolo e regalati al Levi, al Kohen, al povero e così via. Tutto ciò crea la seconda, il primo ordine della Mishnah, e appunto si chiama Zeraim. Zeraim vuol dire letteralmente semenze. La seconda parte parla dei momenti dell'anno, e cioè i Moedim e Shabbat, quindi si chiama Moed. Quali sono le regole del Moed, quali sono le regole dello Shabbat e così via. Il terzo, che si chiama Nashim, che significa donne, è tutto ciò che riguarda il rapporto uomo-donna, quindi i rapporti permessi e vietati, e le regole specifiche all'interno dei rapporti permessi, cioè le regole riguardanti il matrimonio, riguardanti il divorzio, la Ketubah, il matrimonio di Levirato, eccetera, eccetera. Tutto ciò che rientra in queste regole rientra nella terza parte, il terzo ordine della Mishnah, che si chiama appunto Nashim. Quarto ordine della Mishnah, che si chiama Nezikin o Nezakin, significa letteralmente danni, è un riferimento a tutte quelle regole di vita civile, appunto che regolano i rapporti interpersonali per ciò che riguarda sia diciamo elementi pacifici come può essere noleggi, vendite, questioni mobili, di beni mobili e immobili e così via, ma anche soluzioni per situazioni problematiche tra soci o tra persone, danni che sono creati da una parte o dall'altra con i propri beni o con la propria persona. Tutto ciò quindi che riguarda il commercio e i rapporti appunto tra le persone, in questo senso è incluso nel quinto ordine della Mishnah. Il sesto ordine della Mishnah è quello che in realtà è, almeno oggi per noi, prima della venuta del Mashiach, è più astratto, cioè tutto l'aspetto che riguarda la purezza e l'impurità, non tanto nella vita privata della persona, nella vita di coppia, ma soprattutto per ciò che riguarda oggetti e situazioni, l'impurità della morte, l'impurità eventuale di oggetti e così via, di cibi, di alimenti, che sono in realtà poco rilevanti nel nostro mondo oggi, appunto non essendo noi in quella dimensione, però sempre una parte della Mishnah che deve essere studiata ed approfondita. E questo è il sesto libro, si chiama Seder Teharot, e cioè l'ordine delle purezze, delle cose pure. E quindi abbiamo Zeraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim, scusate non ho detto la quinta, Kodashim sono le regole che riguardano le korbanot, cioè i sacrifici che si portano nel Bet HaMikdash e tutte le varie modalità delle offerte e le loro relative regole, quindi Kodashim e Taharot. In ognuna di queste, cioè in ogni ordine della Mishnah, Rabbi Yehuda Hanasi creò dei trattati specifici che li ha chiamati Masechet, ognuna viene chiamata Masechta o Masechet in ebraico, Masechta in aramaico, e ognuno di questi trattati è suddiviso a sua volta in diversi capitoli, e ogni capitolo è suddiviso in vari brani brevi di diverse righe, a volte pochissime righe, a volte di più, dipende dal contesto, e questi brani specifici venivano chiamati Halachot, cioè la Mishnah è tutta l'opera, il Seder è l'ordine dei sei ordini, la Masechet è il trattato all'interno dell'ordine, il Perek è il capitolo all'interno del trattato, e la Halakha specifica è il brano specifico all'interno del capitolo. Noi oggi chiamiamo in realtà ogni Halakha specifica una Mishnah, le Mishnayot in plurale. E tutta l'opera si chiama Mishnah. Per ciò che riguarda la struttura dell'opera, approfondiremo la prossima volta, prima di entrare nella Mishnah stessa, approfondiremo ulteriormente la struttura, il modo che Rabbi Yehuda Hanasi ha deciso, e vedremo la profondità della sua opera in ogni dettaglio, proprio la precisione. Alla prossima, Bezrat Hashem.